Pronto? Pronto? Ci senti? Sì, mi sento. Buongiorno. Eccoci. Allora, come vanno le cose lì? Allora, qua diciamo che il concentramento si sta riempiendo abbastanza, ci sono studenti universitari che stanno sopraggiungendo, un po' di studenti medi delle scuole di zona che quindi invece di andare a Piramide sono venuti a questo concentramento più vicino, ma mi sembrano numeri insomma più che accettabili anche rispetto al fatto che ancora un pochino di tempo prima di partire penso che ce lo daremo. E il clima sembra buono, insomma sono stati poi fatti un po' di picchetti nelle facoltà anche qui davanti ai cancelli di Aldo Moro per insomma tentare di, non proprio picchetti diciamo militari, però per tentare di invogliare un po' le persone a scendere in piazza, e infatti penso abbiano funzionato visto che appunto i numeri non sono malvagi. Va bene, allora dovreste essere raggiunti anche da un altro pezzetto che si sta muovendo per le strade di San Lorenzo e dunque le prossime tappe saranno quelle di raggiungere poi le piazze centrali della città, no? Esatto, guadagnando anche poi metro dopo metro insomma il terreno, valutando quello che sarà l'atteggiamento anche della controparte, comunque sì, l'obiettivo è arrivare il più possibile verso il centro. Senti, c'era anche un appuntamento del coordinamento delle scuole lì a Aldo Moro, vedi qualcuno? Del coordinamento delle scuole? I docenti intendo. Ah, dei docenti, sì, ho visto uno striscione, però adesso ancora il concentramento è molto sciolto, quindi sono visto questo striscione appoggiato a terra, ma ancora il corteo non si è disposto diciamo nella disposizione di partenza, quindi però sì, uno striscione l'ho visto arrivando qua. Va bene, allora ci risentiamo dopo, grazie, ciao.